America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. L'America al voto, dopo due anni di corsa elettorale, se includiamo le primarie, siamo arrivati alla scelta definitiva. Abbiamo visto alti e bassi, dibattiti elettorali, convention, polemiche a distanza fra i candidati. A questo punto tutto è finito, o quasi in realtà, perché il candidato repubblicano Mitt Romney ha scelto di continuare a fare campagna ancora questa mattina. Pensate, il suo orario, fra 45 minuti circa, intorno alle 8:30, andrà a votare a Belmont in Massachusetts, dove risiede, poi prende un aereo e andrà prima a Pittsburgh in Pennsylvania e poi a Cleveland in Ohio, due degli stati chiave. Barack Obama invece è tornato a Chicago ieri notte alle 2 del mattino, ha già votato, è stato il primo presidente americano ad aver votato in anticipo e si concederà una giornata di riposo e di attesa. Dopodiché il voto in tutto il paese, le urne resteranno aperte a West, in Occidente, in Iowa e Nevada fino alle 10 di sera e poi, come dicono tutti e due i comunicati delle due campagne, to be determined, da determinare, ci sarà l'apparizione dei due candidati ai rispettivi convention center. Barack Obama andrà al convention center McCormack di Chicago e Mitt Romney al convention center di Boston. E to be determined, perché naturalmente non sappiamo come andrà a finire questa corsa elettorale. Barack Obama, lo avete sentito ieri in campagna elettorale a Madison in Wisconsin, uno degli stati chiave dove in realtà si trova in vantaggio di quasi 5 punti percentuali, ma la sicurezza, la certezza non è mai troppa. With the right leadership, America is about to come roaring back. Mitt Romney a Fairfax in Virginia, un altro stato chiave, incerto, qui la differenza è molto più stretta, c'è un circa uno 0,4%, 0,5% di differenza fra i due candidati e ha detto, lo avete sentito, con me l'America tornerà a ruggire. Gli americani al voto dunque in una situazione per molti di incertezza, perché dopo l'uragano Sandy ci sono alcuni collegi elettorali in difficoltà e probabilmente alcune urne non saranno operative. Abbiamo avuto poco fa la conferma dal governatore di New York Andrew Cuomo che in realtà nello stato di New York, dove fino a ieri in molte zone mancava ancora l'elettricità, ecco, ha confermato che invece tutti i seggi elettorali saranno aperti e funzionanti. Resta una corsa molto incerta. Alcuni dicono che si chiuderà molto presto perché Barack Obama potrà vincere subito la Florida e l'Ohio con una certa facilità e a quel punto si saprà che lui è stato confermato presidente. Altri dicono che invece ci vorrà più tempo. Comunque sappiate che da questa notte, a partire dalla mezzanotte, faremo una diretta su Radio 24 in collegamento da New York e da Milano. Avremo in studio con noi qui a New York Christian Rocca, Claudio Gatti, Marco Valsania, il sottoscritto, altri colleghi esperti che raggiungeremo via telefono in studio a Milano, Daniele Biacchessi. Intanto qui in studio con me c'è già Christian Rocca. Buongiorno Christian. Buongiorno. Allora Christian, vediamo un attimo questa corsa elettorale, perché sotto un certo punto di vista abbiamo l'approccio razionale, scientifico, di tutti coloro che conducono sondaggi, che in qualche modo ci danno un'anticipazione appunto razionale che vede Barack Obama in avanti, vede Barack Obama in avanti negli stati chiave e Mitt Romney in maggiore difficoltà rispetto al vantaggio in cui si era trovato la settimana scorsa. Ecco, questa razionalità non si confronta anche con la pancia del paese, che è meno razionale e che forse gioca a vantaggio di Mitt Romney? Insomma, pancia o razionalità? Mario, la verità è che le vie di Romney per raggiungere quota 270 ad essere eletto presidente degli Stati Uniti sono molto inferiori rispetto a quelle che ha a disposizione Obama, perché gli stati che sono certamente democratici hanno un peso specifico maggiore rispetto a quelli che sono certamente repubblicani e quindi alla fine per Romney prevalere e diventare presidente deve sostanzialmente vincere in quasi tutti gli stati in bilico di cui parliamo ormai da mesi. Vediamo un pochino quali sono questi stati chiave, cerchiamo un po' di spacchettarli uno per uno, perché per esempio in Iowa e in Wisconsin Barack Obama si trova in vantaggio, in Florida più o meno in pareggio, in Ohio era in vantaggio, poi in svantaggio, adesso è tornato di nuovo in vantaggio, ma quando c'è una differenza di 2 o 3 punti percentuali, dal punto di vista statistico, è significativa o no? Ovviamente non è significativa, però in tutti quei dati che tu hai appena detto, dimostrano tutti che Obama comunque o è in vantaggio, sia pur di poco, o è a pari merito con Romney. Il problema è quello che ti dicevo prima, Romney invece deve vincerli quasi tutti questi stati, deve vincere certamente la Florida, deve vincere certamente North Carolina, deve vincere certamente la Virginia, deve vincere certamente il Colorado, e la partita secondo me alla fine si giocherà in Ohio. Romney potrebbe diventare presidente, anche se non è mai diventato nessun candidato repubblicano, senza l'Ohio, qualora sostituisse l'Ohio con una combinazione di stati, Wisconsin più New Hampshire, Wisconsin più Iowa, insomma una cosa ancora più complicata. Quindi il punto però è che negli stati anche locali Romney è sotto rispetto a Obama. È stata comunque una corsa piuttosto avvincente, devo dire, dal mio punto di vista ne ho seguite parecchio, anche nel finale naturalmente. Tu stesso hai ricordato l'uragano Sandy che ha avuto un impatto straordinario su queste elezioni, questi dibattiti del tutto inattesi. C'è anche però, se andiamo un po' più indietro, un punto di partenza, che in queste elezioni ci accorgiamo che l'America è straordinariamente polarizzata, o meglio, è partita polarizzata, è partita con Barack Obama che ha fatto un discorso in Kansas il 7 dicembre scorso in cui si è spostato molto a sinistra, Mitt Romney che sceglie un compagno di corsa che è sicuramente quello più a destra che poteva scegliere fra i tanti che erano stati considerati, Paul Ryan del Wisconsin, e poi abbiamo visto una convergenza al centro. In questo frammezzo ci sono state molte polemiche, inclusa l'idea che potesse nascere un terzo partito per andare a rispondere alle esigenze di quell'elettorato di centro o di indecisi che non si identificava né nell'estrema sinistra né nell'estrema destra. Non c'è stato il partito. Perché? Perché è stato superato questo problema, o il problema della polarizzazione resta, secondo te? La polarizzazione è una caratteristica della politica americana. È successo lo stesso ai tempi di Bush, ai tempi di Clinton, senza andare indietro. E in tutto quello che hai detto tu c'è proprio il problema della campagna Romney. Romney è tardato a passare dalla modalità candidato per le primarie repubblicane a quella di candidato alle elezioni generali. Nella prima parte ovviamente ha fatto il candidato conservatore, poi quando c'è stato il primo dibattito di Denver tra i due candidati si è visto un Romney diverso, un Romney moderato, pragmatico e più affidabile. Da lì è partita la rincorsa e stasera vedremo il risultato, se sarà a lui favorevole o meno. Ma quello che ci tengo a dire è che non importa chi sarà poi stasera il presidente degli Stati Uniti, perché alla fine in ogni caso sia l'uno che l'altro sono costretti dalla carica, dal ruolo, dallo studio ovale a governare dal centro. C'è un tempo per la campagna elettorale, c'è un tempo per il governo, e secondo me sia l'uno sia l'altro credo che saranno dei presidenti in linea nella tradizione dei presidenti degli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive i tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli soprattutto stanotte, oggi, live per le elezioni americane su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, elezioni americane, alla fine grande polarizzazione, ma la terra, the land is the same, la terra è la stessa. Dunque una grande canzone americana scritta da Woody Guthrie nell'interpretazione di Neil Young and the Crazy Horses, This Land is Your Land, questa terra è la tua terra. This land is your land, this land. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a più tardi, a questa sera per la diretta e poi a domani alle 13:30 per uno speciale di America 24. Goodbye and get going!